Da quanti anni si veste così? Come sarà la sua coda? Di che colore avrà le zampine posteriori? Quanti misteri in una piccola creatura che passa quasi tutta la vita con metà del corpo nascosta dentro una conchiglia. Sulla spiaggia vicino a Ostuni, in Puglia, erano in molte le creature che trovavano strano e sospetto lo stile di vita di Luca, il paguro. Lui, come tutti i paguri, viveva spostandosi con le zampette anteriori e trascinando dietro di sé il guscio di conchiglia nel quale nascondeva metà del proprio corpo. «Certamente avrà qualcosa da nascondere», diceva il polipo. «Magari i tentacoli invischiati in qualche losco affare. Oppure è molto brutto», insinuava lo scorfano. «Così brutto che non vuole mostrarsi». «Secondo me è una creatura senza spina dorsale», aggiungeva la medusa. «Tanto molle da non avere il coraggio di farsi vedere per intero. Di sicuro», dichiarava la sogliola, «di sicuro deve avere una vita piatta». «Mi fa un baffo», concludeva il pesce gatto senza scomporsi. Poi d'improvviso, eccolo, e allora? Tutti zitti, tutti in silenzio, muti come pesci. Nessuno di loro avendo il coraggio di chiedergli il perché del suo strano modo di vivere. Luca soffriva un po' dell'atteggiamento ostile delle altre creature che, diffidenti e sospettose, non lo coinvolgevano mai nei loro discorsi. Ma cosa poteva fare? A dire la verità, Luca non aveva sempre vissuto in quella conchiglia, ma come tutti i paguri, ne aveva cambiate diverse man mano che il suo corpo cresceva. Ma per Luca, il passaggio da una conchiglia all'altra era sempre avvenuto in pochi attimi e in assoluta solitudine. Nessuno l'aveva dunque mai visto senza la sua casetta semovente. «Secondo me quello è uno che non sa andare dritto alla meta», diceva il gambero. «O forse ha qualche spinoso problema», aggiungeva il riccio di mare. «Ve lo dico io, quello è uno che non si sa aprire», sentenziava l'ostrica. Così, ogni giorno, per la continua umiliazione di Luca. Un giorno, Germana, un'anziana e gigantesca aragosta, si trovò a passare sul fondo sabbioso delle acque limpide di Rosa Marina, il famoso villaggio vicino a Ostuni dove viveva Luca. Camminando elegante e fiera nella sua livrea rossa, Germana avanzava, adornata dalle lunghe affusolate antenne. Tutti nella piccola comunità accorsero ad omaggiarla, rispettosi e affascinati dalla bellezza e dall'importanza di quell'animale. La grande aragosta era considerata una vera star, una creatura alla quale tutti guardano con ammirazione e profondo rispetto. Così tutta la comunità del mare le andò incontro facendole atto di riverenza. Le orate andarono a intervistarla, i branzini si offrirono di scortarla fino allo scoglio successivo e anche Luca, attirato dal grande schiamazzo, si affacciò per ammirare la famosa e saggia creatura mentre veniva intervistata. «Signora aragosta!» le stava chiedendo in quel momento una giovane orata. «Quale animale marino ritiene il più interessante?» L'aragosta ci pensò un attimo, poi, schiarendosi la voce, disse: «Senza dubbio, il paguro. Un animale ingegnoso e prudente, e che non manca di una certa eleganza», disse l'aragosta, mentre tutti esclamavano: «Oh! Un animale che stimo molto e che molti di noi dovrebbero imparare a conoscere e a rispettare». Anche Luca rimase stupito alle parole dell'aragosta. Anche lui capì finalmente che non si doveva vergognare di nulla. Vivere in una conchiglia era semplicemente la sua natura. Da quel giorno, poco a poco, gli altri animali hanno preso a parlare con Luca e anche i più curiosi e imbarazzati adesso chiedono direttamente a lui per quale motivo ha scelto di vivere in quel modo. Spesso, quando qualcuno si avvicina a Luca commentando la fatica di doversi trascinare dietro la sua casetta di conchiglia, Luca risponde senza indugio: «Non è fatica, è la mia vita».